Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti a voi. Mi stavo soffocando, ma Peter Bescapè, che regge la parte tecnica, sarebbe subito venuto in mio aiuto. Ma qua ho anche un medico, per cui potevo soffocare. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati, eri tranquillissima nel caso. Ma sarebbe stata però molto triste Laura Vanossi, che è in redazione. Insomma, va bene, abbiamo evitato una tragedia, respiro, ahimè, e quindi sono pronta per chiedere a Peter Bescapè di mandarci i titoli del nostro sommario. Fitness, meglio poco e intenso o molto a bassa intensità? Costume, scegli quello giusto per te. Decidere, è arrivato il momento. Allora, il tempo sarà una parola chiave. Intanto vi dico che sono le 11:10. L'idea di questa puntata ci è venuta leggendo i risultati di una ricerca canadese che sembrerebbe dare speranza al popolo dei pigri. Infatti, secondo lo studio che è stato condotto da questo dottor Martin Gibala, il direttore del Dipartimento di Cinetica all'Università dell'Ontario, 6 minuti alla settimana di attività fisica molto intensa riuscirebbero a garantire un fisico da urlo. Allora, questa naturalmente è una notizia che per molti è suonato come un invito. Ci sono arrivati, devo dire, diverse mail e allora col dottor Confalonieri e Laura Vanossi abbiamo detto va bene, buttiamoci. Ma per buttarci abbiamo chiesto anche un altro aiuto, perché in linea con noi, oltre al dottor Franco Confalonieri, che in realtà è in studio, in linea abbiamo il professor Michelangelo Giampietro, che è medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a te Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io vorrei sapere, dottor Confalonieri, lei questo Martin Gibala lo conosce? 6 minuti e fisico scolpito? No, diciamo che la ricerca è sicuramente una ricerca che ha i crismi della serietà di una ricerca scientifica, anche se peraltro nel nostro mondo era relativamente conosciuto lui e il gruppo, sì, di cui fa parte. Diciamo che ha avuto una grandissima enfasi questa ricerca, un grandissimo ritorno, anche perché ha avuto una pagina dedicata sul giornale più venduto nel nostro paese. E peraltro diciamo subito che 6 minuti non valgono 6 ore, e poi mi auguro nell'ambito della trasmissione di entrare più nel dettaglio, di capire cosa possiamo ottenere da 6 minuti, cosa possiamo ottenere da 6 ore, e soprattutto speriamo di trovare una sintesi fra queste due impostazioni, perché come spesso accade in medium stat virtus. Ecco. Mamma mia, professor Giampietro, ha sentito anche la citazione latina del dottor Franco Confalonieri. Direi però, professor Giampietro, che al di là dello studio, questo ci dà il pretesto per parlare di attività fisica intensa e invece attività fisica magari più lenta e prolungata nel tempo. Questi sono, no, un po' i temi che affronteremo oggi insieme. Beh, penso che sia un argomento molto importante. Merito al collega che ha realizzato questo studio di aver riproposto questa controversia quasi mai risolta, anche se gli elementi a favore della tesi che sposa un allenamento più lungo e di bassa intensità ha una letteratura scientifica alle spalle fortemente considerevole, insomma importante. Però bisogna anche avere il fisico, no? Per fare un'attività fisica molto intensa e per breve tempo, dottor Confalonieri. Sì, questo è un problema, questo indubbiamente è un problema, nel senso che l'attività intensa ha maggiori effetti collaterali. Comunque direi che il tema è importante, nel senso che ci costringe comunque a fare uno sforzo di fantasia, ci costringe a rimetterci in discussione, ci costringe a cercare strade alternative, e questo è importante perché comunque dalla ricerca di strade alternative spesso partono programmi, idee, progetti che sono assolutamente utili e importanti per tutti. Quindi possiamo chiedere lepre o tartaruga? Possiamo chiedere voi come fate per mettervi in forma, e poi vorrei aggiungere, oltretutto possiamo avvalerci della collaborazione del professor Giampietro e non sottovaluterei questo aspetto. Gibala nel suo studio faceva un preciso riferimento anche agli effetti in termini di dimagramento. Sì. E quindi Voi come state cercando di dimagrire? Attraverso la dieta o attraverso l'esercizio fisico? Attraverso quale tipo di esercizio fisico? Oppure semplicemente per mettervi in forma, preferite poca attività molto intensa o una maggiore quantità di attività poco intensa? Aspettiamo di ascoltare le vostre esperienze. Professor Gianpietro, vuole aggiungere anche lei una domanda, perché ho già alcuni sms da leggervi che vi leggerò subito dopo. Professor Gianpietro. Ma la considerazione da fare, secondo me, è quella di tanto appunto rendersi conto che lo studio di Cibala è stato effettuato su un gruppo di studenti, quindi si parla di soggetti giovani, dove le caratteristiche delle fibre muscolari, le caratteristiche in generale della risposta fisica ad un carico anche intenso di allenamento è sicuramente diversa da quella di un soggetto di età più avanzata, sì, anche non necessariamente anziano. E poi dobbiamo vedere bene anche gli effetti a 360 gradi dell'allenamento, che cosa vogliamo dall'allenamento, perché non è soltanto ipertrofia, non è soltanto mitocondri, questa parola magica del muscolo, poi se ci sarà tempo spiegheremo anche meglio che cosa sono, ma noi vogliamo anche adattamenti cardiovascolari, vogliamo effetti favorevoli per quanto riguarda l'assetto dei grassi nel sangue, l'assetto lipidico, il metabolismo degli zuccheri, la insomma pressione, vogliamo poi, un'attività insomma, fisica che ci aiuti proprio a stare bene, a guadagnare salute. È quello che abbiamo come obiettivo tutti quanti. Allora, rapidamente alcuni sms. Lo sforzo prolungato fa sudare e dunque dimagrire. In 6 minuti si riesce a sudare, dottor Confalonieri? Volendo sì, no? Sì, per cui c'è un errore di fondo che è molto importante chiarire. Non è che si dimagrisce attraverso la sudorazione. Attraverso la sudorazione si perdono liquidi che poi si recupereranno in tempi brevi, semplicemente mangiando e bevendo quello che siamo abituati a fare. Quindi dimagramento non vuol dire sudorazione. In 6 minuti si suda, non si dimagrisce in 6 minuti, però si può dimagrire anche in tempi brevi, ma attraverso un consumo specifico dei grassi e non attraverso la sudorazione. Professor Gianpietro, questa è per lei. Ce la scrive Carla. Abito al 5° piano e faccio le scale tutti i giorni, sia per scendere che per salire. Direi che basta questo movimento, allora? Ma questo movimento è sicuramente utile a far arrivare a fine giornata la quantità globale di movimento a quel livello minimo che ci può dare dei benefici. Salire le scale è una delle attività fisiche più faticose e quindi anche più allenanti. Prendiamo sempre la buona abitudine di farle a piedi, non solo in discesa ma anche in salita, se non trasportiamo pesi eccessivi che possono poi sovraccaricare troppo la nostra colonna lombare. Direi che fare soltanto quel tipo di attività fisica, se poi durante la giornata non si ha un livello sufficiente di movimento, forse non pochino. È sufficiente per ottenere quei benefici che appunto noi chiediamo dell'attività fisica per farci stare meglio in salute. Allora, e a proposito di benefici di cui parlava il professor Gianpietro, diteci proprio quali benefici volete ottenere e insieme ai nostri esperti noi vi suggeriremo il tipo di attività fisica da praticare, ma anche il tempo e la frequenza con cui farlo. 800 24 00 24, 349 238 6666, se invece preferite scriverci. Una mela al giorno. Vi ricordate qualche anno fa, parecchi anni fa, c'era una canzone dei Righeira, che tra l'altro è un gruppo torinese, che si intitolava Vamos alla Playa, dottor Confalonieri, lei se la ricorda senz'altro. Perché... Sì, mi ricordo meglio Non tengo di nero. Che è più attuale. Va bene, adesso noi oggi proveremo a dimagrire un po', a tonificarci, perché la prova costume, direi che alcuni l'hanno già fatta e comunque ci aspetta. E allora, per scegliere il costume ideale, il costume che meglio esalta il nostro fisico o nasconde parti del nostro fisico che non vorremmo far vedere, come avevamo promesso, si ricorda, dottor Confalonieri? Assolutamente sì. Abbiamo invitato Dino Del Corso, che è curatore d'immagine. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, ogni promessa è debito, il costume insomma copre e scopre, cerchiamo di sceglierlo quello migliore per la nostra figura. Iniziamo da noi donne. Va bene. Diciamo che questo è il periodo forse peggiore perché ce ne sono tantissime possibilità. Ma iniziamo guardando le 5 forme che abbiamo a disposizione. Allora, per la donna che ha tendenzialmente molte rotondità, si parla di rotondità del busto, della pancia, delle braccia, sì, quella che potrebbe essere un po' chiamata la forma mela, sì, si chiede di non utilizzare i costumi interi, ma di utilizzare molti colori e soprattutto non colori unici, soprattutto il colore nero, perché tende a fare un blocco unico. Quindi bisogna sbizzarrirci con i colori in modo tale che lo sguardo viaggi dalla testa ai piedi. Ecco, di solito invece Dino si dice nero smagrisce, sono un po' forte, prendo un bel costume intero nero e mi tolgo il problema. Errore, bisogna andare sul colore e sulle geometrie. Ecco, okay. Non nelle rotondità. Se invece abbiamo un fisico a pera, ossia dove abbiamo le spalle molto strette, il nostro punto forte, quello che si vede meglio, sono i fianchi e il sedere, dobbiamo in questo caso prediligere colori scuri per la parte bassa, in modo tale che snelliscano, e utilizzare magari dei reggiseni a coppa o con delle spalline un pochino in evidenza, in modo tale da allungare lo sguardo e portarlo verso l'alto. Se abbiamo invece un fisico molto mascolino, quindi abbiamo poco punto vita e abbiamo pochissimo seno, dobbiamo utilizzare le linee orizzontali, che in questa maniera ci aiutano a definire il corpo, e utilizzare quello che adesso è chiamato un nuovo stile di bikini, che è il tanchini, ossia la canottiera con lo slip sotto. La canottiera, essendo sagomata, aiuta a creare il punto vita e quindi a dare una figura più femminile a un corpo che magari ha dei delineamenti un pochino più maschili. Se invece abbiamo un fisico a triangolo capovolto, ossia con le spalle larghe e i fianchi piccoli, si consiglia di utilizzare degli slip a vita alta, che in questa maniera aiutano ad allungare le gambe e a dare un pochino più di volume alla parte posteriore, e di utilizzare invece per la parte sopra dei reggiseni con dei lacci molto molto piccoli. Dei laccetti piccoli. Piccoli, sì, in modo tale da non visualizzare troppo nella parte superiore, ma bisogna dare più importanza nella parte sotto. Se invece si ha un fisico normale, quindi a classica forma B, quindi con un seno, una parte posteriore ben proporzionata, la scelta è libera. La scelta è libera, si può andare anche senza. Sì. Ma no, dottor Compagnieri, questo no? Io sono rimasto affascinato dal tanchini, adesso ho questa fantasia. Il tanchini. Allora, Dino, ci piacerebbe venire a comprare e a scegliere il costume con lei? Io tra l'altro stasera vengo a Torino, ma domani sono di nuovo a Milano, per cui arrivo che i negozi sono chiusi, le va bene, perché sennò l'avrei trascinata con me in giro per negozi. E per invece i boxer, tanga, eccetera, rimandiamo Dino del corso alla prossima settimana, perché daremo dei consigli anche per i nostri ascoltatori. Intanto i nostri ascoltatori hanno tutte le indicazioni necessarie per regalare questo fine settimana, tempo di saldi, un costume ad hoc per la loro fidanzata o moglie, quindi con i consigli di Dino del corso. Grazie Dino. Grazie a voi. Buona giornata, alla prossima. Per boxer, slip, eccetera, che mettiamo a posto anche il dottor Confalonieri, sarà un caso difficile. Grazie a Dino del corso. Pronto soccorso. Slow o fast? Preferite sforzi duri per periodi brevi oppure esattamente il contrario? Qui in studio con me il dottor Franco Confalonieri, al telefono il professor Gianpietro, e stiamo proprio cercando di raccogliere un po' quelle che sono le vostre esperienze e anche le vostre esigenze, perché a seconda delle esigenze che abbiamo e anche un po' della nostra salute generale, su questo non possiamo trascurare sicuramente nessun aspetto, possiamo cercare di scegliere un'attività piuttosto che un'altra. Dottor Confalonieri, ad esempio? Sì, una sottolineatura, indubbiamente accennava giustamente il professor Gianpietro agli aspetti cardiovascolari, c'è da dire che il fast, soprattutto il fast intenso, richiede un impegno cardiovascolare molto elevato e quindi ha dei fattori di rischio sicuramente superiori rispetto allo slow. Quindi da questo punto di vista, se facciamo un'attività lenta, tranquilla, graduale, possiamo anche essere relativamente meno attenti alle nostre condizioni di partenza. Se facciamo un'attività intensa, dobbiamo fare prima uno screening attento sulla situazione del nostro sistema cardiovascolare. Non solo, indubbiamente in termini di efficienza del sistema cardiovascolare, quindi di prevenzione delle patologie dismetaboliche, di prevenzione dell'ipertensione, l'attività di lunga durata e di bassa intensità è sicuramente più efficace. Questo è un punto di vista che non possiamo mai dimenticare. Il ragionamento è quello fatto prima: quali sono gli obiettivi e quindi in funzione degli obiettivi quali mezzi utilizzare. Se l'obiettivo è un'efficienza generale e un miglioramento generale delle condizioni di salute, probabilmente lo slow è ancora raccomandabile. Noi però vogliamo rispondere, ci sono tantissimi messaggi, ad esempio ad Andrea da Rimini che fa una domanda che interessa molto anche a me: come fare a tonificare i glutei e la schiena? Professor Gianpietro. Ma le possibilità sono tante, a parte degli esercizi specifici per questi gruppi muscolari, ma i glutei in particolare non dobbiamo mai dimenticarlo che vengono utilizzati in ogni nostra attività svolta in stazione eretta, in piedi e soprattutto quando camminiamo. Cioè, senza dei potenti glutei l'uomo non avrebbe mai raggiunto la posizione bipede, soltanto addirittura abbiamo modificato il nostro bacino rispetto alle scimmie per poter accogliere dei muscoli glutei robusti tanto da mantenerci in piedi su due zampe e non più su quattro. Quindi il consiglio che dobbiamo dare è sempre quello di fare delle attività semplici. Camminare va benissimo, camminare di buon passo ancora meglio, se poi le condizioni generali consentono anche di fare uno sforzo più intenso, la corsa, non ne possiamo che trarre un grande beneficio anche per questi gruppi muscolari. Poi possiamo anche aggiungere degli esercizi specifici, sia con attrezzi sia senza attrezzi, quindi a carico naturale, che sicuramente contribuiscono a dare una forma più tonica e più trofica a questi gruppi muscolari. Allora, ci ha raggiunto, intanto in compagnia con noi da qualche minuto, Stefano Tilli. Ciao Stefano, grazie. Buongiorno a te, agli ascoltatori e ai tuoi ospiti che conosco. Senti Stefano, oggi tu l'avrai sentito, stiamo parlando, allora, attività fisica intensa e rapida oppure andare un pochino su un'attività più morbida, lenta, che dura più a lungo? E tu sei stato un grande velocista, quindi hai scelto una disciplina che prevedeva proprio un'esplosione dell'energia, ma per poco tempo, quindi non è che ti mettiamo a testimonial dell'attività dei 6 minuti citata dalla ricerca da cui abbiamo preso spunto, ma sicuramente tu sei testimonial di quel gruppo di nostri amici nostri, dei nostri ascoltatori che preferiscono al sport di, come si possono definire, dottor Confalonieri, scatto, non sport di velocità, ecco. Sprint. Stefano. Oddio, quello che si vede in televisione effettivamente è soltanto la punta dell'iceberg, il risultato, quei 10 secondi di pista. Però ti garantisco che per quei 10 secondi ci sono scatti ripetuti per ore, per cui diciamo che noi abbiamo combinato tutte e due le esigenze, quella di sport che richiede molta velocità però prolungata anche nel tempo. Un allenamento di uno sprinter prevede ripetute sì corte ma con recuperi molto brevi e quindi ripetute nel tempo. Lo sforzo può durare anche, ovviamente ripeto, con le pause, anche un'ora e mezza, quindi direi che abbiamo combinato le due esigenze. Allora, io direi, se Stefano ci fa questo regalo, di dare un consiglio ai nostri ascoltatori che si orientano negli sport di velocità e che magari stanno iniziando, cioè, si arriva a un punto in cui ti sembra di andare bene, poi a poco qualcosa capita e hai bisogno ancora magari di quel pezzettino di sprint in più. Stefano. Sì, dunque, questa nostra è un'attività molto complessa perché investe, direi, a 360 gradi quella che è la preparazione fisica. Come ho sentito dire prima, non si può arrivare ad uno sforzo molto intenso senza una preparazione, un approccio. Per cui prima si corre più, si fa un po' di cross, noi a settembre-ottobre facciamo un po' di fartlek, il sistema cardiovascolare di cui ho sentito parlare prima. Quando si arriva intorno a novembre-dicembre si cominciano gli esercizi proprio in pista di scatto, di tecnica di corsa. E nello stesso tempo si comincia anche tutta quella che è la preparazione della palestra, la forza. Sentivo prima parlare di glutei, è effettivamente vero che basta camminare. Se camminiamo in salita ancora meglio, se corriamo in salita ancora meglio e se corriamo forte in salita ancora di più. E se solleviamo pesi con esercizi tipo l'accosciata massima, tipo gli affondi, facciamo ancora meglio per i glutei. Tutta questa preparazione sta poi intorno ad aprile-maggio a cominciare la stagione, quindi è una preparazione molto lunga, molto variegata, complessa, che investe tutto l'anno. Quindi Stefano, per lo sprint ci vuole una lunga, lenta, costante, graduale preparazione. Stefano, grazie per essere stato con noi, mi hai fatto proprio piacere. Ok, grazie a voi, grazie. Un saluto. Un abbraccio. Voglio leggere, dottor Confaloniere, un messaggio. Ho 38 anni, magari no, e nuoto circa 4 volte a settimana a livello agonistico da 3 anni. Da quest'anno ho lavorato con intensità più alta, seppure con recuperi più alti. Ho notato un dimagramento rispetto agli anni scorsi. Questo ci scrive Giovanni, 38enne, Ferrara. Dottor Confalonieri. Questo è estremamente interessante come esperienza. In effetti può servirci per cercare una sintesi fra questi due approcci. Si è visto infatti che anche lavori intervallati ma intensi, come il lavoro del nostro ascoltatore, per esempio 30-45 minuti di sforzo con 45-60 secondi di 30-45 secondi di sforzo con 45-60 secondi di recupero, sono estremamente efficaci anche nel terminare dimagramento, nel senso che noi andiamo a risintetizzare una serie di fonti energetiche con un consumo specifico di grassi. Quindi questa è un'alternativa in termini di dimagramento al lavoro prolungato di bassa intensità. È evidente che è un'alternativa che richiede un impegno cardiovascolare maggiore, un impegno muscolare maggiore, soprattutto se non si fa nuoto, e quindi che possiamo utilizzare nel momento in cui abbiamo verificato un'ottima funzionalità di questi sistemi. Però direi che forse molto intenso poco non è sufficiente, però relativamente intenso e relativamente poco può essere una buona alternativa al blando prolungato. Quindi un mix in sostanza, esatto. No? Esatto. Invece che uno o l'altro è quello. Esatto. Cerchiamo una sintesi attraverso questo tipologia di attività. Andiamo a Modena, ci chiama Mario. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno. Siamo qui. La mia è una domanda specifica. Facendo attività fisica da circa un mese e mezzo in palestra, in questo caso i pareri sono un po' discordanti, cioè mi spiego meglio. Con l'obiettivo di ottenere il dimagrimento, premesso che comunque va abbinato a una dieta equilibrata e tutto quello che vogliamo. Sì. È consigliabile fare un'attività fisica lenta al fine di bruciare, diciamo, la massa grassa, oppure più cospicua in modo da bruciare gli zuccheri, quindi maggiori calorie per ottenere l'obiettivo del dimagrimento? Mario, ma lei fa una domanda che al professor Gianpietro piacerà un sacco. Professore! Siamo qui in attesa, impaziente di dare una risposta alla domanda dell'amico che ci ha fatto questa domanda. Allora, il dimagrire dipende sostanzialmente dalla capacità di creare un bilancio di energia negativo tra le entrate delle calorie col cibo e le uscite delle calorie con l'attività fisica, salvo la presenza rara, per fortuna, di malattie specifiche e particolari. Tutte le maniere che abbiamo per creare questo bilancio energetico negativo favoriscono il dimagrimento. Sono tanti e recenti anche i lavori che confermano che l'importante delle diete per dimagrire non è tanto come sono costruite, quello riguarda poi gli effetti su altri aspetti della salute, ma finalizzato esclusivamente al dimagrimento, quello che conta è sostanzialmente il numero di calorie. Meno se ne mangiano, purtroppo da lì non si scappa. Esatto, ma ancora più importante è aumentare il dispendio energetico con l'attività fisica. Allora, dato che il dimagrimento dipende dalla quantità di energia che noi riusciamo a consumare, sì, e noi sappiamo che per caratteristiche metaboliche dell'organismo umano possiamo consumare molte più energie se facciamo un lavoro lungo e lento di quante ne possiamo consumare se facciamo un lavoro breve e intenso, la strategia per il dimagrimento più corretta rimane ancora oggi quella di praticare un lavoro lungo e lento. E che cosa vuol dire? Vuol dire arrivare a sommare, come prevenzione dell'aumento di peso, noi dovremmo svolgere un'attività fisica per circa 150-250 minuti a settimana, un'attività fisica di intensità moderata. Se vogliamo invece favorire una diciamo perdita dell'eccesso di peso, sì, dobbiamo probabilmente aumentare questo livello di attività fisica, trasformando parte di questa attività moderata in attività ad intensità maggiore, oppure aumentare il numero di minuti a settimana che vogliamo. Che sono questi 150-200, dottor Confalonieri? 250, questo dice la letteratura. 150-250 minuti a settimana di attività fisica moderata. Quindi noi sommiamo tutte le volte che andiamo fuori a correre, fare le cose, facciamo palestra. Facciamo 250, diamo al nostro organismo l'input giusto per favorire un dimagrimento, che ricordiamoci, perdere un chilo del nostro peso perso in maniera corretta, cioè a scapito della componente grassa e non della componente magra e muscolare, vuol dire creare un buco di energia, uno sbilancio negativo, un bilancio energetico negativo di 7700 calorie. Sono tante, quindi richiede molta attività fisica. Per questo è bene abbinare all'attività fisica anche un controllo della propria alimentazione. Assolutamente. Consiglio di lettura. Vi ho un po' spiazzato, di solito vi preparo, vedete, quindi vediamo se siete attenti. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro dal titolo No Limit, Volere e Vincere di Michael Phelps. Bravo. più grande nuotatore di tutti i tempi. Assolutamente. Va bene, e ci tenevo che lo dicesse lei perché so che lei è un grande appassionato. Comunque, per ricevere questo libro a casa dovete essere in questo caso veloci, mandare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Saluto Giampaolo da Brescia. Buongiorno Giampaolo. Sì, buongiorno. Giampaolo, senta, stia qua con me perché voglio dare voce anche ai numerosi messaggi, ma intanto volevo salutarla. Allora, uno molto difficile, lo passiamo al dottor Confalonieri. Ho smesso di fumare 10 kg in più, come fare? In parte l'abbiamo già detto. Innanzitutto mangiare meno o molto meno, perché era evidente anche da quanto detto dal professor Gianpietro, cioè un chilo sono 7700 calorie. Sì, però questo saperlo già a me mette ansia, giù. Chi lo dice? È molto più facile ridurle in termini di alimentazione che non consumarle in termini di esercizio fisico, soprattutto in una prima fase. Perché me lo vedo come una montagnola. Bravissima, in una prima fase riduciamo in modo critico e selettivo la quantità di alimenti. In una seconda fase, per ottimizzare gli effetti della dieta, introduciamo in modo gradualmente crescente l'esercizio. Quindi innanzitutto mangiamo meno, introduciamo meno. Io vado in montagna e ad esempio nell'ultimo weekend ho camminato complessivamente 21 ore. Mamma, e questo voleva i complimenti, glieli facciamo così. Bravo, contento. Marco. Però 21 ore sono un po' tante. Tante, l'amorosa. Giampaolo, è arrivato il suo momento. Mi scusi, me l'ho tirata dentro in questa specie di famigliona. Giampaolo, ci racconti il suo successo o il suo problema? Sì, buongiorno. Io sono arrivato a 41 anni senza fare, facendo poca attività fisica. Adesso ho cominciato palestra. Palestra, l'idea era un po' di dimagrire, il classico giro vita di noi quarantenni, e però faccio quasi solo esclusivamente corsi, spinning, gravity, comunque pochi pesi. E adesso volevo aumentare un po' di massa muscolare, specialmente la parte alta, che ne sono sprovvisto. Adesso guardi che la prossima settimana chiederemo a Dino Del Corso dei consigli per i costumi boxer, slip, quelli che mettete voi al mare, quindi magari lei può avere anche lei un consiglio per evidenziare il tono muscolare. Dottor Confalonieri, nel frattempo lo facciamo lavorare perché... La scelta dei corsi è una bella scelta, nel senso che comunque è un'attività intensa, un'attività intervallata, un'attività che garantisce un buon dimagramento, in più è divertente, in più sono ben frequentati, quindi sicuramente Giampaolo si troverà in una buona compagnia. Peccato che l'attività nei corsi sia prevalentemente a carico degli arti inferiori, quindi è necessario integrare il corso con 15-20 minuti di pesi per la parte superiore. Io consiglierei di lavorare, se vuole fare massa, al 60-70% dei suoi massimali, facendo 10-12 ripetizioni eseguite molto lentamente. Quindi un quarto d'ora, 20 minuti di pesi e poi corsi a volontà. Allora, qualche indicazione l'abbiamo data, professor Giampietro. Grazie per essere stato con noi. Ci sentiremo presto. Grazie a tutti voi. Buona giornata. Dottor Confalonieri, noi ci vediamo. La prossima settimana. Io volevo ricordare che si avvicina l'appuntamento con le nostre mamme. La puntata mensile è il secondo martedì di ogni mese in cui le mamme di Radio 24 decidono il tema da portare in trasmissione. Ne mettiamo sempre una rosa di 4-5 temi che potete trovare e votare sul blog, sul www.blogmamma.it. Mi raccomando, votate, perché il vostro voto può, come si dice, rivoluzionare la classifica. Per adesso in testa ci sono i capricci, ma votate il vostro tema. Grazie, dottor Confalonieri. Grazie a voi. E adesso, prima di salutarci, vogliamo occuparci di chi deve prendere una decisione importante e non riesce a farlo. Insomma, i classici sortentenna. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Fabia Schoss. Buongiorno. Buongiorno. Psicologa, psicoterapeuta, specialista in terapie brevi e meditazione. Dottoressa Schoss, a volte l'indecisione ha proprio a che fare con la scarsa fiducia che abbiamo in noi. Abbiamo paura di sbagliare, allora stiamo lì in un limbo. Tanto il tempo passa. Succede che continuiamo a pensare, ma il mio consiglio è di prendere tempo. Quando non ci viene un'idea, sbattere la testa contro il muro non serve a niente. Può essere doloroso. Assai. Allora, quindi, dove troviamo quella molla, quell'ispirazione per capire e fare la scelta giusta? Dobbiamo lasciar perdere per un momento l'idea di fare la scelta giusta e lasciarci andare. Una possibilità molto semplice, a disposizione sempre, in qualunque momento, per ognuno di noi, è uscire e fare una bella passeggiata, in un modo particolare. Quindi non basta andare un po' in giro per negozi? No, fare una passeggiata, camminare, con gli occhi che guardano diritto davanti a noi. Dobbiamo essere attenti, sentire il corpo, sentire i nostri piedi che toccano la terra, esserci, camminare, coscienti che stiamo camminando. E allora cosa succede? Succede, ve l'assicuro perché io lo faccio spesso, che anche se siamo nella strada più vicina a casa, vediamo più lontano. Con gli occhi che guardano lontano vediamo la fine della strada, vediamo una casa a cui non abbiamo mai dato attenzione. E succede che si allarga l'orizzonte, proprio l'orizzonte materiale che abbiamo davanti. E forse può succedere che si allarga qualcosa anche dentro di noi. Arriva l'intuizione. Esatto, in questo spazio che facciamo dentro arriva l'intuizione. Ed è proprio da lì che viene la scelta giusta. Gli antichi maestri Zen dicono: quando ci impegniamo a prestare attenzione, ogni cosa si illumina. E per questa puntata è tutto. Vi ringrazio per essere stato con noi. Appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.